Taccuino di viaggio. Litorale di sabbia bianca, calette nascoste e fondali che custodiscono antichi relitti da esplorare. E poi templi greci, mosaici di epoca romana, monasteri e basiliche. Cipro è la terza isola più grande del Mediterraneo e vanta 56 spiagge bandiera blu. In una posizione strategica, da sempre è stata crocevia di popoli. L'isola vanta un patrimonio culturale di 9.000 anni di storia e il mito narra che qui, dalla schiuma delle acque di Paphos, nacque Afrodite, la dea dell'amore. Cosa vedere? A Cipro si visitano grandi siti archeologici. Paphos ospita le tombe dei re, una serie di lapidi scolpite nella falesia. Katopaphos è la parte bassa della città della costa occidentale dell'isola. Qui l'attrattiva più celebre sono i mosaici pavimentali del III secolo, costruiti per i nobili romani per una superficie di circa 300 metri quadrati. Considerati i migliori del Mediterraneo orientale, sono dedicati soprattutto a Dioniso, dio del vino. Curion si visitano la Basilica Paleocristiana, l'Agorà, e un teatro greco-romano con vista sul mare. Nelle notti d'estate ospita balletti e concerti. Con la sua rete di sentieri, la penisola di Akamas è la meta ideale per gli amanti delle camminate. Polis è la località balneare della costa meridionale circondata da agrumeti. Nell'estremo sud dell'isola, il castello di Colossi torreggia su un paesaggio costituito da vigneti. Fu costruito dai cavalieri dell'Ordine di San Giovanni, a cui vennero concesse queste terre nel 1200. Nicosia è la capitale di Cipro. Il museo municipale ripercorre lo sviluppo della città dalla preistoria ai giorni nostri. Il museo bizantino nel palazzo arcivescovile vanta una superba collezione di mosaici e icone sacre. Nel giardino, la cattedrale di San Giovanni possiede affreschi del XVIII secolo. Cose da fare. Lungo gli oltre 600 chilometri di costa dell'isola si praticano tutti gli sport acquatici. Cipro è rinomata anche per il trekking e il ciclismo. In inverno, a quasi 2.000 metri di altezza, sul Monte Olimpo, si scia. Nei mesi più freddi, nel lago salato di Larnaca, sostano migliaia di fenicotteri. In primavera sbocciano 2.000 tipi di fiori e oltre 50 specie di orchidee. Ordinate una squadra di navi in tre file. Chiudete le uscite del golfo e gli stretti marini. Cingete in un cerchio l'isola di Aiace. Così, se i greci, per fuggire alla morte, tenteranno con le navi un'occulta via di salvezza, a tutti sarà riservato di aver mozza la testa. A Cipro, il cartellone della stagione teatrale estiva prevede spesso le tragedie greche classiche, rappresentate all'aperto negli anfiteatri. A settembre il vino scorre per le strade di Limassol, per il festival che celebra la vendemmia. Cose da mangiare. La tradizione culinaria cipriota affonda le sue radici in Grecia, pur conservando forti influenze di origine medio orientale. Il kleftikò è l'agnello al forno, ovunque poi si assaggiano i mesedes, in tingoli, insalate e spuntini. Cipro è famosa anche per la frutta e il vino, maturato al sole dei vigneti di Paphos e Limassol. L'isola ha anche un cocktail nazionale, il brandy al limone, creato da un barman locale per Re Farouk d'Egitto negli anni 30. Il segreto. Cipro è una meta ideale per gli amanti delle immersioni subacquee. Sui fondali dell'isola c'è il relitto della Zenobia, la nave affondata al largo della costa di Larnaca. È ancora intatta, con il suo carico nella stiva, ed è popolata da banchi di pesci. Lungo le coste di Cipro, il Mediterraneo nasconde anche grotte marine, da dove si può ammirare sott'acqua l'antica storia dell'isola. Sui fondali di Paphos, il vasellame è ciò che resta delle navi naufragate nei secoli e tirate in secco sulla scogliera. E sui fondali dell'isola di Afrodite termina il nostro viaggio a Cipro. Un saluto da Maria Chiara Grandis.